America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made a stop, but I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Harry Belafonte, un classico, Farewell Jamaica, un addio alla terra natia. Le persone che partono e che così emigrano e probabilmente non torneranno più. Una canzone che io trovo bellissima e struggente, che vi ho fatto ascoltare perché oggi torniamo a parlare del nostro camionista italiano che vuole emigrare in America per dare un futuro migliore ai suoi figli. Ai microfoni di America 24 per parlare di questo caso abbiamo il ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, Renato Brunetta. Buongiorno ministro, vorrei leggerle una lettera che ho ricevuto da un mio ascoltatore che mi dice questo. Cioè, salve mister Platero, ascolto tutti i giorni la sua trasmissione, sono 23 anni che faccio l'autista di mezzi pesanti, volevo chiederle se c'è la possibilità di lavoro come truck driver, camionista, negli States. Vorrei dare un futuro migliore ai miei figli, grazie per la sua attenzione. Mi ha colpito molto perché questo signore, che è un camionista dipendente, vuol dare un futuro migliore ai suoi figli ed è un'immigrazione non di cervelli, non è una fuga di cervelli, ma di un lavoratore che, dalla conversazione che ho avuto, mi è sembrato una persona molto integra, molto sana. Ecco, che riflessione ha davanti a una preoccupazione di questo? Cosa dice al camionista? Io sento tanto una straordinaria domanda di merito, di trasparenza, di produttività ripagata. Sento tanto il rifiuto di incrostazioni, di vecchie regole, di vecchi privilegi, di vecchi monopoli, di vecchie rendite di posizione. Pensiamo cosa vuol dire da noi la benzina, i distributori di benzina, le autostrade troppo strette, i monopoli, lo stretto fluire dell'economia. Cioè l'economia, i comportamenti economici devono passare sempre per strettoie o fiscali o burocratiche o infrastrutturali, perché un camionista soffre evidentemente quando le corsie sono poche. A queste poche infrastrutture fisiche corrispondono anche poche infrastrutture, chiamiamole, di modernità, e il merito è una di queste infrastrutture di modernità. Il merito vuol dire che se sei bravo devi guadagnare, che se sei bravo devi essere premiato, se sei bravo non devi essere vessato, se sei bravo devi poter fare profitto. Laddove da noi c'è ancora purtroppo un odio contro il merito. Nei confronti di chi ha successo, di chi è bravo, c'è quasi un senso negativo, non positivo. Mentre in America, devo dire, si respira molto un'ammirazione per chi ha successo. Non vorrei dire la solita banalità, è lo spirito protestante di weberiana memoria. Sì. E noi siamo ancora figli dello spirito cattolico, che ricchezza è un peccato, che successo è un peccato, e successo e la ricchezza devono essere nascosti perché sono un peccato. Nell'ottica protestante è vero esattamente il contrario. E da lì la piramide è al contrario. Da noi i camionisti, già il termine camionista, tanto i lavoratori dipendenti quanto i cosiddetti padroncini sono degli schiavi di ritorno, perché troppi costi, troppa fatica, troppo lavoro, troppo autosfruttamento o sfruttamento, poco guadagno di fatto poi alla fine, perché troppe sono i taglieggiamenti. O i taglieggiamenti infrastrutturali, o i taglieggiamenti fiscali, o i taglieggiamenti burocratico-amministrativi. Tutti saranno d'accordo con quello che l'hai detto, meritocrazia, cerchiamo di togliere le regole, però se ne parla da tempo, succede poco. Secondo lei che cosa deve succedere in Italia per poter davvero cambiare in quella direzione? Io ho cominciato a pubblicare tutto, a rendere tutto trasparente, con una fatica immane. Sto anche lavorando alla semplificazione burocratica, però poi si mettono tutti contro, perché poi alla fine... Tutti attenzione, chi? Tutti chi, per esempio? Tutta la burocrazia, tutto il sindacato, molta della politica. Quando si toccano i privilegi di questo o di quello, casca tutto poi alla fine. Attenzione che l'opacità alla fine produce rendite di posizione. Non è così semplice la trasparenza, perché la trasparenza vuol dire mandare all'aria gerarchie, mandare all'aria potere. Ecco, questo è la malattia mortale del nostro paese. Però mi sembra che lei non è che sia ottimista che questo cambi in tempi brevi, e dunque se il camionista nostro di cui parlavamo, Facchinetti Giovanni Paolo, a quel punto riesce ad andare in America, forse fa la cosa giusta o no, dal suo punto di vista? Io sono per la mobilità di tutti, e quindi se la sente di farlo, che lo faccia. Ovviamente se se ne va per me, e se se ne va perché l'ambiente in cui vive lo costringe ad andarsene, per me è un fallimento. Io sto cercando in tutti i modi la libertà di decisione e non la spinta ad andarsene dovuta a ambienti difficili o cattivi, perché anche qui bisogna stare un attimo attenti, c'è anche qui una contraddizione. Pensiamo ai cervelli, no? La fuga dei cervelli. La mobilità dei cervelli è una delle cose più belle al mondo. Se questo è frutto di ottimizzazione, di libertà, di investimento, ma se questo è una costrizione, la fuga, perché a casa tua non puoi più vivere, non puoi più fare il tuo mestiere, non puoi più fare il ricercatore, ma sei costretto a, beh, questa è una sconfitta. Allora, io sto cercando di mettere al passo del resto del mondo l'Italia, in maniera tale da rendere tutti più liberi, liberi di andarsene in America, liberi di restare, liberi di stare nella propria città al sud, al nord, o di muoversi per cercare percorsi di vita, percorsi esistenziali migliori, però nella libertà e non come fuga. Devo dire, per le mie esperienze, il paese reagisce, però la fatica è tanta e la cattiva congiuntura certamente non aiuta. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, la dedichiamo di nuovo al nostro amico, al camionista Facchinetti, che pur non essendo nato negli Stati Uniti d'America, ci ha dimostrato di avere un grande spirito americano nell'intervista che abbiamo fatto con lui, e dunque di Bruce Springsteen, Born in the USA. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24.